24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Fratelli veneti, non riusciranno, la canaglia romana e i loro manutengoli locali non riusciranno nello sporco progetto di tenere schiavi i popoli. Ci hanno derubato e tenuto schiavi per troppo tempo. È arrivato il momento di cambiare pagina e cambieremo pagina. Veneto libero! È rispuntato anche Umberto Bossi col Veneto libero e contro la canaglia romana. E va bene, e va bene. Questa è 24 mattino, sono le 6:34 minuti. Cari ascoltatori, si apre ufficialmente la 49esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché la 49esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. E allora siamo qui alle 6:34 minuti. Voglio salutare Miriam Lucchetti, redazione. Saluto anche l'alpino Peter Bescapè in regia. E vogliamo aprire il Parlamento? A un caffè si può avere. Il caffè volentieri a tutti quanti. Parlamento. Io non lo voglio il caffè della minima. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Rossere col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Storto come il dottor House. Buongiorno anche a lei, cara ascoltatrice. Va bene, sono le 6:35 minuti. Voglio salutare Mario Adinolfi. Marione, eccoci qua. Buongiorno. Ufficialmente candidato Mario Adinolfi, è stato depositato ieri la lista anche Forza Juve. Diciamo, non è vero, non ci credo, non ci sa mai, è una buttata, sì. No, è una buttata che... Ricordo che c'era Forza Roma e Forza Lazio, si candidavano qui a Roma, veramente. No, ma aspetta, è una buttata che tu sia candidato. Io sia candidato. Forza Juve, c'è, Forza non Juve. Credo che raccoglieranno le firme, so che è un po' complicato. Forza Juve, non credo che passerà. Forza Juve. Marione, ti voglio presentare, è tornato con noi Antonio Di Pietro. Buongiorno Di Pietro. Juventino, peraltro. Mannaggia, meno male, buongiorno a tutti che non si è fatta Forza Juve allora, perché quasi un pensierino ce lo facevo. Ma infatti, ma Di Pietro è Juventino, questa non la sapevo, è Juventino Di Pietro. Sono nato Juventino e me lo sono tenuto la Juve anche quando ha fatto la furba. Ah, ecco. Glielo dica da Adinolfi, glielo dica. Adinolfi zitto subito, la furba. È tutta una montatura. La furba, quando ha fatto la furba? Sicuro che Di Pietro voleva tifare una squadra corrotta. Effettivamente. È vero, Di Pietro non può Di Pietro figurarsi, quindi è la prova ufficiale che la Juve non ruba alle 6:36 minuti, perché Di Pietro non può tifare una squadra corrotta, effettivamente. Vabbè, anche questo è vero. È sempre colpa degli arbitri, dei giudici, è colpa di tutti quelli che spopolano i fatti. Vabbè, ma si sa. A proposito di questo, allora vogliamo subito entrare sulla questione decisiva politica. Voglio subito chiedere a Maria Adinolfi questa cosa. Hai sentito il ministro Boschi dire che anche senza Forza Italia facciamo la riforma del Senato? Pare ci sia un piano B. Sono convinto che tutta una chiacchiera preelettorale, la riforma del Senato non si fa. Cioè, si faranno una lettura, due letture, ma non arriva, ricordiamo ai radioascoltatori che ci vogliono quattro letture con distanza di 3 mesi, con le procedure dell'articolo 138, e con questa maggioranza la riforma del Senato non si fa, ci sarà un incidente parlamentare prima o poi in una delle quattro letture che renderanno impraticabile, secondo me, questa strada. E Renzi potrà dire: non mi hanno fatto fare la riforma del Senato, cittadini italiani, votatemi. Questo sarà il leitmotiv di una bella campagna elettorale con consultellum, cioè quella proporzionale. Insomma, avete capito, abbiamo scherzato, la riforma del Senato non si farà mai. Io credo che non verrà approvata. Bene, bene, va bene. Abbiamo, sì, Di Pietro, che di cose di politica, che pensa Di Pietro? Ha ragione. Ma io, voi avete iniziato il programma facendo una presentazione un po' dicendo di tutto e di più, mi pareva più chiara di questa riforma che stanno facendo. Beh, la nostra sigla è Benigni, è Benigni. È molto più chiara. Ed è di 15 anni fa, più o meno di 15 anni fa. Io credo anch'io che così com'è questa riforma non si riesce a fare. E soprattutto mi auguro che non si faccia così com'è, perché voglio dire, alla fine non è una riforma, è una presa per, come si dice, a quest'ora di mattina, per i fondelli. Ah vabbè, per i fondelli sì, si può dire. Vabbè, insomma, ma ho capito. E quindi Mario farà così, come si dice Renzi, a questo punto, una palla per andare a votare. Giocherà, per come andare come a sempre votare. Si è giocato con la palla delle riforme, una volta la palla delle riforme elettorali, una volta è il finanziamento pubblico dei partiti, ogni volta si mette una palla e si gioca, insomma. Poi in realtà quello che arriva veramente a pimporto è poca roba di solito, insomma, sì. No? Cioè la politica si gioca in questa maniera. Renzi farà alcune cose materiali, vere, tipo gli 80 euro nella busta paga delle persone, insomma, sì. Che daranno il senso del fatto che lui è uno che agisce. Poi farà le nomine, perché qui è una rete di potere molto importante, e poi farà appunto questo bailam intorno alla riforma del Senato, che sarà come la riforma della legge elettorale, che era una cosa che pareva imprescindibile, ma si è fatto un pezzo, ma non si è fatto il resto. Per cui siamo là, traccheggiamo, non è più imprescindibile, Giachetti non fa più lo sciopero della fame, non è più è come fosse stata approvata, ma non è stata approvata. Non è stata approvata. È stata approvata Munca. Quindi queste cose fatte un po' a metà saranno il leitmotiv di questa fase, con alcune invece cose pratiche, ripeto, gli 80 euro in busta paga che gli italiani si percepiranno e credo daranno un consenso poi alla fine a Renzi, penso il PD andrà bene. Sì, tra l'altro c'è la questione invece della settimana, no, perché Repubblica dice che c'è un piano B, no? Avete sentito il ministro Boschi dire noi anche senza i voti di Forza Italia ci sarebbe un piano B per Repubblica, cioè Sel e gli ex grillini, insomma c'è un gran fermento a dire ma no, noi serviamo, eccetera, e poi è la settimana, caro Di Pietro, è la settimana, cosa che succede giovedì? Se lo ricordo. Ma aveva fatto apposta, ma ci può essere pure un rinvio, se uno non sta bene fa un rinvio. Ah, secondo lei c'è il rischio che non stia bene? Ma poverino, è stato in ospedale. Ho capito, è stato in ospedale, ma è uscito. Comunque pare stia benissimo. A proposito di questo stare bene, allora sentite Berlusconi, che siccome è stato ricoverato per il ginocchio, sentite cosa ha detto telefonando a una convention di Forza Italia. Le mie ginocchia parlano il mio passato di centometrista, e quindi a 16 anni facevo 100 metri in 11 secondi, e questo in avanti con le primavere. Vabbè, l'audio è quello che è, ma il concetto è sconto il mio passato da centometrista, a 16 anni facevo i 100 metri in 11 secondi, quelli del Fatto Quotidiano sono andati a controllare quando aveva 16 anni Berlusconi, il record del mondo era 10 secondi e 3, quindi più o meno a 16 anni lui faceva in 11 secondi, qualcuno sulla rete ha ricordato il mitico Fantozzi, vabbè, giochiamo. Fantozzi fu colto da allucinazioni competitive. Io sono stato azzurro di sci. Io sono stato della nazionale di sci. E lo dice così, ma vabbè. Ha sentito Balboni, che bravo. Azzurro di sci, caro Di Pietro. Lei correva a 100 metri, no? Io correvo in campagna presso gli animali. In 11 secondi. No, vabbè, ma al di là dei giochi, al di là delle questioni. Caro Di Pietro, ma è un po' diverso giudicare Berlusconi, quello che succederà giovedì, o deve essere trattato come un cittadino come tutti gli altri? Ma io credo che poi non ci sia, ormai quel che è successo è successo, si tratta di vedere semplicemente se deve stare dentro casa sua, che non mi pare sia un appartamento a 40 metri quadri e comunque si può muovere tranquillamente, o se andare ai servizi sociali e sicuramente qualche realtà sociale ci sta. Il problema di fondo è un altro, io lo ripeto con tutto il rispetto, per l'amore di Dio, mi è sembrato poco opportuno a 4-5 giorni da questa decisione del Tribunale non che lui sia andato dal capo dello Stato, ma che il capo dello Stato l'abbia ricevuto. Questo mi è sembrato poco opportuno. Non l'hai piaciuto? Cos'è? Un pregiudicato al Quirinale? Qualcuno ti... non è questo, non vuol dire nulla, perché poi, per l'amore di Dio, ce ne vanno tante là al Quirinale di pregiudicati. Il problema è che mandi un messaggio comunque di uno che va lì, che ti vuole quasi... Diciamo, o me lo dai questa grazia, o se no faccio scoppiare, o se no non faccio, non do i numeri al governo, non do quello, non quella. Cioè, dà un'idea di una pressione fuori dalle righe. Quindi, voglio dire, riceverle 4 giorni prima, 4 giorni dopo non cambiava niente, nulla. Il messaggio che è passato è un messaggio un po' di un'istituzione che viene compressa, se non compressa. Vabbè, fa le sue pressioni politiche. No, non ho capito perché hai così tanti pregiudicati al Quirinale. Che vuol dire? Chi è che va al Quirinale pregiudicato? Voglio dire, nel corso degli anni è capitato a parecchi, ci sono anche pregiudicati che ritengono appunto di, come si dice, che meno male che lo sono stati, c'è gente che lo rivendica, quello si è dichiarato prigioniero politico l'altro ieri, chi ha detto quello che è stato preso con la... Con la ruspa trasformata in carro armato. Ah, vabbè, sì, quelli in Veneto. Ma chi, insomma, ma Adinolfi, qui che succederà giovedì? Perché Berlusconi fa bene a dire voglio un'agibilità politica, oggi il giornale subito a dire ecco, non gli faranno fare i comizi, non gli faranno, non faranno andare da Bruno Vespa. Io rivendico che non mi hai fatto la domanda sui 100 metri, che io ho fatti veramente in 12.73 ai provinciali di atletica leggera. Mario Adinolfi, 12.73. Io faccio atletica. Io ci credo, sai, Mario Adinolfi, quello che dice per me è sempre vero. La Juve non ruba, l'anno scorso, la scorsa settimana hai detto che non avete rubato col Parma e quindi non avete rubato per me. 12.73 che 12.73. Non è un cattivo tempo. Se fossi amico di Adinolfi, ma non lo sono e quindi non mi permetto, altrimenti avrei detto, ma non è che rotolavi, no? Vedi che è cattivo di Pietro, vedi che è cattivo di Pietro. Eccolo, non è che rotolavi 12.73. Vabbè. 12.73, grande prestazione. Non è un brutto tempo. Non è un brutto tempo. Certo, Berlusconi 11 secondi a 16 vabbè, anni. Ma quindi... che ha 11.99, chi lo sa? No, 11 secondi a 16 anni. A 16 anni. Ho detto 11 netti, magari è 11.60. Vabbè, ma a 16 anni. 10.30 era il record del mondo, poteva fare le Olimpiadi. Comunque, insomma, a parte questo, non lo so. Berlusconi, secondo me è molto brutta questa cosa di non fargli fare la campagna elettorale. Io lo trovo, ecco. Spero che i magistrati siano in qualche modo intelligenti. Insomma, ma intelligenti di che? Mano. Ma che vuol dire? Cioè, cosa devono fare? Una cosa tenendo conto che. Se lo vedi nei servizi sociali, gli lasci lo spazio politico per fare attività politica. Non è. Io non ho mai votato Berlusconi, sono stato sui banchi del Parlamento all'opposizione, contro di lui, però secondo me uno che prende oggettivamente i voti fino a un anno fa di 9 milioni di italiani, adesso forse di 6, 7, 5, insomma. Non ha capito Di Pietro, ma guarda che ultimamente tutti quanti noi leader o ex leader politici più parliamo più disastri facciamo, quindi non è detto che a dargli la voce ci guadagna il partito. Ma che vuol dire? Perché va uno lì dice che fa 11 secondi netti, va uno lì che dice che sai che cosa combina, riformando questo, riformando quell'altro, poi alla fine a un certo punto l'elettore dice mamma basta, lasciatelo parlare. Non mi sembra intelligente costringerlo a stare dentro casa. Ho capito, ma io posso essere d'accordo, però non è questione di essere intelligente o no, è che se c'è una sentenza, cioè... c'è la sentenza, però c'è anche adesso la discrezionalità del magistrato di decidere cosa fare, no? Se lo mandi ai domiciliari o ai servizi sociali. Allora, se io posso dare un consiglio a quel magistrato che deve decidere, tenderei, siccome è molto raro che venga mandato ai domiciliari uno con quel tipo di condanna e quel tipo ma di. Ma per Berlusconi pare peggio i servizi sociali, assistenti sociali, trovi più umiliante questo. Comunque la signora che deciderà oggi il giornale la mette così, è Beatrice Crosti, magistrata, che decide quelli della lettera B, come Berlusconi, e il giornale la mette così. Ci sono milioni di italiani da una parte e una signora sola che deciderà, Beatrice Crosti. 24 mattino. Ma vi pare mai possibile che un barbiere della Camera dei Deputati a fine carriera debba guadagnare 130.000 euro all'anno lordi? Uno stenografo più di 200.000 euro. Ma scherziamo. Milan, ma fai delle informazioni come si deve. Dillo. Dillo che il brodo è ancora troppo grasso, che dobbiamo stringere ancora la cinghia. Perché c'è ancora troppo da mangiare, dobbiamo far la fame. Ciao, c'è che piatti? Dentieri, cani, gatti. Ma chi lo consiglia Berlusconi? Si è rincoglionito ad avere questa gente a fianco. Basta, non ci crediamo più a queste stronzate, non ce le beviamo più. Però Giovanardi a Modena non vince. Può vincere chiunque, ma non Giovanardi. E poi ti dico anche che vince il PD. Mila, ma solo arrabbiato. Renzi è un pallone gonfiato. Chiacchiere dappertutto, di qua, di là, per lì, per là, la Toscana. Ha rotto le palle già tutti. E ho sentito quel dibattito con quel signore lì che è stato 5 anni consigliere regionale e prende 2.000 euro di pensione, di vitalizio. Sono un chimico diplomato, ho lavorato la bellezza di 51 anni e prendo 1.650 euro al mese di pensione. E vuole anche avere ragione. Sai come si dice dalle mie parti? Fatte caporale e mangia gallina. Ciao. Eccoci qui, lo so, Di Pietro ci può aiutare a capire l'ultimo messaggio, il senso di fatte caporale mangia gallini, che vuol dire? Io sono invece rimasto impressionato perché la cosa più giusta e più vera, mi pare che l'abbia detto chi ha dato l'informazione stradale, stamattina c'è un grosso traffico, un grosso intorno, un gorgo intorno a Casaleggio, dalle parti di Bologna. A Casaleggio? E così ha detto. A Casaleggio. Adinolfi, che dici? Sono tutto a posto? Sei sereno? Bellissima segreteria telefonica con i tuoi soliti psicopatici. Però adesso devo trattarli bene perché ci vuole un libro in uscita. Si chiama Voglio la mamma. Giusto. È vero. Perché hai fatto? Ho scritto un libro sulla mamma. Un libro sui temi etici, un libro complicatissimo: matrimonio omosessuale, aborto, eutanasia, una cosa terrificante, serio, però molto serio. Scritto, documentato, fatto molto bene. E quindi devo trattare bene anche gli psicopatici della tua segreteria che probabilmente vogliono la mamma, del motivo per cui telefono la segreteria telefonica di Milano. Allora va bene, ma poi dopo ti invito lui è perché vuol parlare al grande pubblico, ti invito poi parliamo anche se lui sa che io il grande pubblico lo disprezzo, però so quando deve comprare il mio libro parleremo lo può amare comprate il libro di Adinolfi, psicopatici, ecco, questo è il concetto di che vuol dire Adinolfi. No, però adesso abbiamo Antonio Di Pietro, allora adesso un paio di domande dobbiamo chiedere, Mario Adinolfi. Intanto tu sei curioso di sapere se ha spedito questo benedetto curriculum alla regione Lombardia? Adesso Di Pietro ci dirà di no, ma a quelli alla Lombardia dicono di sì. L'ha spedito o no? Chi vivrà vedrà, io ho detto no e ripeto no. Cioè lei non si è candidato a fare il... Non ho spedito nulla. No, non ha spedito nulla. E come mai allora questo giallo? Da cosa può essere? Scrivere Aldo Grasso su quella sera. Non sopporto, ha fatto infatti, una vigliacata nei confronti di Pietro. La seconda domanda è questa. Secondo Grasso, quello è una richiesta per avere visibilità. Secondo altri che mi hanno detto ieri, ma no, quello potrebbe essere una cosa buona perché tutto sommato... E sei uno che ci azzecca, poi voglio dire che chi vivrà vedrà. Ma già adesso allora ci sta dicendo che qualcosa in ballo c'è, no? No, c'è niente in ballo. Sono in questa... Adesso appena finisco qua c'ho da andare a sistemare tutti i miei animali in campagna. Ah già, è vero che ci ha ricordato l'altra volta che sono tanti. E poi invece questa... Sono partorite pure le caprette. Le caprette. E poi invece l'altra questione è che ma ce lo vuole dire, perché qualcuno fuori dai funerali di Gerardo D'Ambrosio ha detto che l'ha sentita dire un po' a denti stretti che non l'hanno fatta mettere in posa in foto. Questo ringrazio questa domanda, perché questa è veramente una cosa che non ha né capo né coda, perché io a parte il fatto che a me io mi sono messo io volutamente non in mezzo agli ex colleghi, perché sono un politico, ancora si sta discutendo, io lo ribadisco, non mi candido alle prossime europee, ma comunque l'Italia dei Valori si candida alle prossime europee. Una persona che rispettavo, che ammiravo, che a cui ho voluto un bene da matti, come Gerardo D'Ambrosio, l'ultima cosa che ho voluto fare è quella di dare l'impressione di andare a strumentalizzare andando da politica mischiarmi in mezzo a una realtà drammatica qual è quella. Quindi volutamente mi sono messo all'angolino per non dare fastidio e per non fare in modo che qualcuno pensasse se volesse strumentalizzare qualcosa. Il risultato è che alla fine come fai sbagli, perché poi se lo facevo al contrario avrebbero detto così. È chiaro. Quindi voglio dire quando uno vuol criticare a tutti i costi, che può fare? Succede. Vabbè, ma non, se pensi alle caprette che adesso devono mangiare. Devo salutarvi, grazie Antonio Di Pietro, Mario Di Rolfi. Mario, ti inviterò a parlare del libro in maniera un po' più seria, promesso. Candidati con forza Juve, forza, dai. Intanto il giornale radio, ciao. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Forza italiani, debosciati che non siete altro, bisogna lavorare, è la 49esima settimana decisiva per la riforma elettorale che si è già aperta e voi siete ancora lì a fare le vostre colazioni eterne. È iniziata la 49esima settimana decisiva per l'abolizione delle province e voi non siete ancora andati a lavorare. E se invece ci siete già andati, bravi, bravi. Allora, alle 7:16 minuti, in questo istante, di che parleremo oggi? Parleremo di lotta all'evasione fiscale, visto che si parla di tagli. Perché non c'è questa ipotesi, la lotta all'evasione fiscale? Ne parleremo con Bruno Tinti, magistrato, ex magistrato, editorialista del Fatto Quotidiano. Avremo con noi anche Oscar Giannino, che torna. Oscar Giannino ai nostri microfoni, insieme al responsabile degli albergatori di Cortina. Ricordate, a Cortina ci fu questo blitz, abbiamo recuperato 2 milioni di euro, così almeno dice il direttore dell'Agenzia delle Entrate Befera. Sono tanti, sono pochi, sono abbastanza, ma in realtà il danno di immagine è stato superiore e quindi ne abbiamo persi molti di soldi, secondo alcune letture. Di questo parleremo più avanti, ora andiamo a sfogliare i giornali che trovate in edicola. È lunedì 7 aprile, intanto cominciamo con i titoli, a partire dal Sole 24 Ore, il titolo dell'edizione del lunedì: professionisti caccia agli sconti anticrisi. Questa è l'apertura. E poi uno dei temi più ricorrenti è quello dei tagli, gli sprechi, perché domani il governo presenterà il DEF, il documento di economia e finanza, e quindi lì si vedrà come il governo Renzi vuole recuperare soldi e dare dei soldi recuperandoli dai tagli. Tagli, il piano in due tempi, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Il premier: sforbiciate su motorizzazione e consorzi. Mentre Repubblica: 1 miliardo di sprechi, ecco tutti i conti sugli immobili di Stato. Pensate che lo Stato ha immobili, è proprietaria di immobili per 281 miliardi di euro, ma paga nonostante ciò 1 miliardo di euro all'anno in affitti. La Stampa: stretta sulle municipalizzate. Oggi il premier vede Padoan e Cottarelli, colpiamo i santuari della pubblica amministrazione, così La Stampa. Il Messaggero invece mette una notizia politica: Renzi, Berlusconi, incontro vicino. Il Messaggero mette quasi come certo questo incontro tra Renzi e il leader dell'opposizione Berlusconi. Perché giovedì c'è questo incontro, giovedì c'è questa sentenza, questa decisione dei magistrati definitiva se mettere Berlusconi agli arresti domiciliari o ai servizi sociali. Assalto giudiziario, questo è il titolo del giornale. Piano, blocca Berlusconi. Basta comizi, basta incontri politici, così il Tribunale di Milano si prepara a fermare il capo dell'opposizione. L'apertura dell'Unità invece: aiuti anche ai redditi bassi. Questo è l'indiscrezione di Renzi, che lavora al DEF per l'appunto. Mentre il Secolo XIX, IRAP, un taglio solo a metà, copertura a rischio. Questo il Secolo XIX. Io voglio partire proprio da queste idee dei tagli, queste ipotesi che sono in campo sui giornali, a cominciare da una notizia che però non è positiva. Forse i tagli sono necessari se è vero che il Sole 24 Ore con Gianni Trovati racconta, pagina 4, come la spesa pubblica sia aumentata. Il titolo è: la spesa pubblica non cede nei consumi intermedi, vale a dire gli acquisti di beni e servizi che servono a far funzionare la macchina pubblica. Gli ultimi dati ufficiali sono questi: la spesa pubblica è aumentata del 7,6% dal 2010 al 2013 e dunque non si ferma, scrive Trovati, mentre il governo stringe i bulloni della nuova spending review, chiamata non senza difficoltà a trovare le risorse per finanziare i tagli dell'IRPEF, cominciano ad emergere i numeri sui risultati dei tagli di spesa nell'epoca pre-Cottarelli, numeri non incoraggianti. A non fermarsi, appunto, è la spesa pubblica, o meglio la spesa considerata cattiva da tutti, ministri, tecnici, commissari, cioè la spesa per consumi intermedi, appunto aumentata del 7,6% tra il 2010 e il 2013. Certo, non si fa, non si recuperano e non si fanno tanti soldi con la vicenda che è stata la vicenda più d'immagine della vendita delle auto blu all'asta. Si cominciano a raccogliere i primi piccoli frutti, le prime briciole. Sono state vendute le prime 6 auto blu. Cari italiani, siete uno dei fortunati che si sono comprati su eBay. Fortunati, ma chi so. Che si sono comprati su eBay questa auto blu. Sono state aggiudicate le prime, come racconta Il Messaggero con Roberta Amoruso a pagina 6. La prima a tagliare il traguardo su eBay, un'Alfa 166 usata dalla Polizia di Stato, 126.000 chilometri alle spalle, si è aggiudicata alle 18.05 minuti di ieri una offerta, la 45esima dal 27 marzo, il prezzo 8.150 euro. Io non sono esperto, non so se è stata una cazzata comprarla a questa cifra oppure no. Giudicate voi. Poi una BMW 525D del 2009 con 193.000 chilometri sul groppone è stata presa 14.050 euro. Ancora una Lancia Tesis del 2007 canna di fucile a 7.550 euro, una BMW 525 con 141.000 chilometri nel motore è stata presa 12.050 euro e così via, offerte fino a sfiorare anche i 20.000 euro, un totale di cifre raccolta delle 6 auto vendute di 56.500 euro. Ma non c'è neanche briciole per lo Stato, 56.500 euro per uno Stato. Si compra, non lo so, la fornitura per 2 giorni delle cialde di caffè a Palazzo Chigi. Però vabbè, l'immagine è quello che conta, no? Il segno, il segnale. Adesso avanti con le altre aste e avanti con i tagli che contano un po' di più. Per esempio, oggi è tutto un taglio, è tutto un taglio. Se fosse vero, per carità, cioè se fosse poi confermato, ottimo. Per ora siamo ai piani, agli annunci. Per esempio, il ministro Martina, ministro dell'agricoltura, come racconta Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera, pagina 3, tagli per 100 milioni al Ministero dell'Agricoltura, intanto 3 elicotteri A-109, un aereo Piaggio da 9 posti della flotta del Corpo Forestale verranno dismessi per un risparmio di 1,5 milioni di euro l'anno a regime. E poi le spese gestionali, i membri dei consigli di amministrazione dovrebbero scendere da 5 a 3. Oppure, dove la dimensione organizzativa lo consenta, diventare un organo monocratico, cancellate le indennità di presenza e i gettoni, ridotti i contratti a tempo determinato, questo 1 milione di euro l'anno di risparmio dai tagli al sistema informatico della forestale, quindi 100 milioni di euro il Ministero dell'Economia annuncia li taglieremo così. E poi l'altro piano è quello di motorizzazione e municipalizzate. Sulle municipalizzate la Stampa fa un articolo molto interessante a pagina 3. Gli affari dei comuni valgono 80.000 poltrone. Francesco Spini racconta tutti i dettagli a partire da un libro di Bernardo Bortolotti, economista dell'Università di Torino. In questo libro titolato Comuni S.P.A. Bortolotti analizza la situazione delle municipalizzate definendo la situazione davvero molto preoccupante. Non ci sono più vie di mezzo, bisogna privatizzare e ripensare il sistema. Perché quello che è successo negli ultimi 20 anni è paradossale, dice Bortolotti. Mentre lo Stato per lo più vendeva, privatizzando, i comuni sono entrati in affari. Risultati? Ci sono ora, nel regno dell'economia di scala, una miriade di piccole e medie imprese con un doppio dividendo politico ed economico. Economico solo quando va bene, perché metà delle galassie delle partecipate di comuni e di altri enti locali è in perdita. Un indebitamento complessivo che si aggira sui 34 miliardi, superiore al loro valore stimato sui 30 di miliardi. Ci sono società che partecipate, che gestiscono casinò a Venezia o perfino, perché no, campeggi, stabilimenti balneari a Jesolo. Per carità, dice questo economista, è sbagliato fare di tutta l'erba un fascio, ma la cifra del nostro capitalismo municipale è quella dell'inefficienza, dei buchi di bilancio, di società che spesso non nascono per occultare perdite e far sembrare più soldi, più solidi i bilanci dei comuni nel contesto del patto di stabilità interno. È una miriade di società che schiera ben 24.310 consiglieri. Un vero poltronificio che si arricchisce di 56.000 strapuntini per revisori di conti e consulenti, gente che costa. Per tenere in piedi solo i consigli di amministrazione partono ogni anno 2,5 miliardi di euro, tanto più che solo il 16% di queste società pubbliche, anche minuscole, sceglie di avere un amministratore unico, l'84% sente l'esigenza di dotarsi di un bel consiglio di amministrazione. E poi ci sono 200.000 dipendenti, in crescita. Alla fine del 2010 le tre principali aziende del comune di Roma, ossia ATAC, AMA e ACEA, totalizzavano 2.637 posti di lavoro in più rispetto a 2 anni prima. Allegria si assume! Vedete che ci sono i posti di lavoro a spese di tutti? Ci sono, cari italiani, basta andarsene a cercare. E insomma, questa è l'analisi delle municipalizzate sulle quali Renzi vuole mettere un occhio pesante e anche un bel forbicione, insieme alla motorizzazione, come racconta Marco Galluzzo a pagina 5 del Corriere. Quante volte ogni italiano è toccato pensare che la motorizzazione è un ente inutile, poco efficiente, stressante per le sue code, svilente per la mancanza di rapidità. Al Presidente del Consiglio forse è toccato più che ad altri, visto che tutti gli uffici della motorizzazione civile sono appena entrati nel suo mirino. Tutti gli uffici della motorizzazione civile, attenzione, domani forse ci saranno novità, chissà. Marco Galluzzo racconta che è stato tutta la domenica a lavorare proprio sul DEF e trapela dal documento che potrebbe essere in qualche modo travolti dai provvedimenti del governo anche la rete dell'ACI, i consorzi di bonifica, il sistema delle municipalizzate che appunto abbiamo affrontato. Tra l'altro Matteo Renzi ha scelto, pare, una persona, questo racconta il Secolo XIX, salvo improvvisi cambi di scena, è una persona che è il simbolo in qualche modo della rottamazione, scrive il Secolo, una persona che deve mettere a capo dell'ufficio legislativo di Palazzo Chigi, quindi un ruolo molto importante, avrebbe scelto la super vigilessa Antonella Manzione. Lo racconta Sonia Oranges in prima pagina del Secolo. Nel suo ufficio di Palazzo Chigi funzionari si girano i pollici perché i provvedimenti dell'esecutivo inviati al loro esame si contano sulle dita di una mano. Ma ora Renzi, in quella casella decisiva, capo dell'ufficio legislativo a Palazzo Chigi, ha scelto di far fare il debutto ad Antonella Manzione, cinquantenne avellinese, trapiantata in Toscana, soprattutto renziana di strettissimo rito, già capo dei vigili urbani a Firenze, city manager della città, è stata dirigente a Serravezza, Lucca e poi a Pietrasanta, dove nel 2002 è assurta agli onori delle cronache giudiziarie per un violento scontro con il giovane sindaco. I resoconti dell'epoca narrano di una contesa su una multa che il sindaco voleva annullata, la comandante dei vigili urbani no. Ne venne fuori una guerra in piena regola che parve concludersi con la rimozione della vigilessa Manzione dal proprio incarico, ma poi finì al TAR e in procura a Lucca. dove il vertice della polizia municipale presentò regolare denunce, dove lavorava il fratello della dirigente, il pubblico ministero Domenico, assai stimato come giurista. E se per questione di opportunità il fascicolo aperto sulla denuncia fu inviato poi a Genova, lo stesso non accadde per le successive accuse, una valanga sotto le quali il magistrato seppellì il sindaco, che alla fine fu assolto da ogni addebito tranne che da quello di mobbing contro i vigili urbani. Vabbè, potrebbe essere lei la figura scelta, Antonella Manzione, che è andata poi a fare il braccio destro al contempo vertice al vertice dei vigili urbani di Firenze. Stima e amicizia personale, così è il legame tra Renzi e Antonella Manzione, racconta il secolo XIX, e lei potrebbe essere scelta per questo ruolo chiave. Staremo a vedere. Intanto continuano l'idea dei tagli e continua la questione politica. La notizia politica del giorno è Silvio Berlusconi, che succederà questa settimana, e sulla questione degli arresti domiciliari e servizi sociali, e questo come impatterà sulla logica delle riforme. Secondo il ministro Boschi, senza i voti di Forza Italia si va avanti comunque. Forza Italia ovviamente teme di essere accantonata. Questo sarà il tema politico della settimana. La carta costa e io pago. Va bene, sì, anche oggi la carta costa e lo scopriremo più avanti. Intanto, a proposito di tagli, perché non abbiamo finito il menù dei tagli, oggi Repubblica pone questa inchiesta, pagina 2 e 3, che davvero ha delle cifre incredibili poste così: a case per 281 miliardi, indovinate chi? È lo Stato, ovviamente, a case per un valore di 281 miliardi di euro. Nonostante ciò, lo Stato spende 1 miliardo all'anno in affitti. Non male, eh? Ecco gli sprechi, questo è il titolo di prima pagina, eh? 1 miliardo di sprechi, ecco tutti i conti sugli immobili di Stato. Chissà che Matteo Renzi non guardi anche qui. Lo Stato, raccontano Federico Fubini e Roberto Mania, lo Stato è tra i più grandi e incapaci gestori al mondo di case, palazzi, caserme, fabbricati rurali, opere destinate al culto. Questo stima la Ragioneria Generale. Un patrimonio mattonico ha un valore, unica eccezione in Italia, che cresce in modo esplosivo nonostante la lunga recessione. Valeva 128 miliardi nel 2008, ora vale 281 di miliardi, più che raddoppiati in 4 anni. Tolti ovviamente i beni artistici, archeologici, è una fortuna solo questa superiore a quella dei 5 uomini più ricchi del pianeta: Bill Gates, Carlos Slim, Warren Buffett. Positivo, no? No. Scrive Repubblica, perché soltanto lo Stato centrale butta ogni anno oltre 1 miliardo di euro per pagare gli affitti di sedi e di uffici, ma anche perché nemmeno Palazzo Chigi, cioè il governo, o lo stesso De Manio confessano al Tesoro le proprietà che controllano. Ecco, questo è un altro aspetto in un censimento che è stato fatto all'interno della pubblica amministrazione. Repubblica scrive: il 40% non ha neanche comunicato l'ammontare del proprio patrimonio. Cioè lo Stato voleva sapere: caro Stato, diteci, cari esponenti dello stesso Stato, quanto abbiamo in cassa. E quegli esponenti dello Stato non hanno detto allo Stato centrale quanto abbiamo in cassa, così non l'hanno neanche comunicato. Ecco, questo è il livello a cui siamo arrivati, e quindi ecco che gli sprechi sono facili. Va bene, la politica, dicevamo, la politica bella si può prendere dall'aspetto giocoso. C'è sempre questo momento del fatto in cui si depongono le liste, la deposizione delle liste per le europee. Ieri al Viminale, al Ministero dell'Interno, è stato depositato l'elenco delle liste. Potete leggere a pagina 11, oltre ovviamente ai partiti tradizionali, anche le liste Io Non Voto, è stata depositata, pensate, Io Non Voto, Forza Juve, Bunga Bunga, anche questa lista. Ovviamente nel giro di 48 ore è molto probabile che alcune di queste liste vengano cassate, Poi c'è La Catena, Insorgenza Civile, c'è anche una lista Valentino Presidente. Non si capisce chi sia questo Valentino. Certo che io quando ho visto Forza Juve ho detto: ahi, butta male anche a queste elezioni europee. E vabbè, chissà se sarà accettata. Mi auguro proprio di no. non è una, un giudizio politico il mio, sia ben chiaro. Però la notizia politica del giorno certamente è che il ministro alle riforme e rapporti col Parlamento, Maria Elena Boschi, ieri intervistata da Maria Latella su Sky, ha detto in pratica i voti ci sono per la riforma del Senato, se non ci sono da Forza Italia andiamo avanti comunque, anche senza Forza Italia. Questa frase subito ha scatenato delle letture politiche. La più esplicita è quella di Repubblica, pagina 6 e 7, vale a dire il piano B del governo. Secondo Repubblica esiste, e questa affermazione di Maria Elena Boschi ne è la conferma, andiamo avanti anche senza Forza Italia, un piano B. Il piano B, come racconta Tommaso Ciriaco a pagina 6, è questo. Nell'immenso risico sulle riforme combattuto da Renzi, si prevede di sostituire le truppe di Berlusconi con una pattuglia di senatori che siedono alla sinistra del Premier, dunque 7 vendoliani, almeno una decina di ex grillini, disponibili a fondere le proprie proposte con il disegno di legge alternativo sottoscritto da 22 senatori democratici. Dunque c'è tutto uno schema sugli equilibri del Senato, su dove si possono recuperare i voti. Nessuno vuole boicottare il percorso, prova per esempio ad assicurare Pippo Civati, uno di quelli dati più dissidenti all'interno del Partito Democratico, ma solo allargare il consenso sulla riforma. Perché impuntarsi? Dunque, secondo Repubblica esiste questo piano B. Via le truppe di Berlusconi e dentro Sell e ex Grillini. Tanto che Brunetta, intervistato dal Corriere della Sera, da Tommaso Labate a pagina 8, dice: Renzi vuole distruggerci. È vero che Renzi urla, ma alla Camera, al Senato, non ha i numeri. E dice Brunetta: la Boschi sa benissimo che ho ragione. E ho ragione io, me l'ha anche detto, sa? Mentre approvavamo l'Italicum alla Camera, la dolce ministra mi telefonava per ripetermi di tenere compatti i miei deputati, perché lei non era altrettanto sicura della tenuta di quelli del PD. Dunque fa la voce grossa Renato Brunetta a dire in realtà noi siamo uniti, sono loro. Renzi vuol metterci alle strette con un atteggiamento tra lo sbruffone e il ricattatorio, così Renato Brunetta, intervistato dal Corriere della Sera. Certo, Berlusconi che linea tiene? Ma Berlusconi ha la linea complicata, è complicato tutto per Berlusconi perché pende con la spada di Damocle del 10 aprile. La spada di Damocle è la decisione che verrà affidata al magistrato Beatrice Crosti, che il giornale dipinge così: una donna sola da una parte contro milioni di elettori dall'altra. Beatrice Crosti è la magistrato che deve decidere se dare gli arresti domiciliari o i servizi sociali a Silvio Berlusconi. Deve deciderlo lei, perché lei ha a che fare con i condannati con la lettera B. E quindi toccherà a lei. Stop a viaggi e comizi, ecco come fermeranno il capo dell'opposizione. Il giornale con Luca Fazzo racconta, pagina 3, non potrà mai andare in TV, quindi basta Vespa, basta i comizi fuori regione, sarà proibito incontrare altri pregiudicati, e in questo il giornale gioca un po' dicendo per esempio non potrà incontrare Beppe Grillo. Vabbè, insomma, non che fosse in programma, ma anche se lo volesse incontrare Berlusconi non potrà incontrare Beppe Grillo. Sta di fatto che succederà a Berlusconi? È un momento delicato, è un momento difficile. Lo vedremo tra poco che succederà a Berlusconi, perché prima, a proposito di servizi sociali, voglio salutare Mauro Meazza. Vuoi affidarmi ai servizi sociali? Pensi ma che... non lo so. Ah, no, perché noi svolgiamo, dici tu, con il Sole 24 Ore, anche un servizio insomma di valore sociale. Sì, era questo, bravo, era questo, sì, il legame. Tortuosa, sì. Ma vabbè. Perché pensavi male? No. No, ma io comunque sto già sentendo un avvocato per capire se questi lanci che stai facendo, come dire, possono essere lesivi. Uno dietro l'altro, messi uno dietro l'altro. Fai il dossier, prepara un bel dossier. Faccio un bel dossier e poi te lo ripropongo sul Sole 24 Ore del lunedì. Certo. Senti, hai visto che la spesa pubblica, ohimè, non c'è. Sì. Abbiamo fatto un lavorettino, abbiamo guardato indietro per qualche anno, Gianni Trovati ha messo in fila i dati, la spesa cosiddetta per consumi intermedi non è aumentata, non è mica calata. Guarda, lo citavo giusto in apertura per raccontare i tagli dove vanno. I tagli, sai, come dire, tra il fare e il tagliare, non so, ecco, poi completalo tu. Però, insomma, qualche segnalino di ripresa, noi l'abbiamo visto sul lato dei consumi. Allora proviamo a raccontarlo oggi nelle pagine di Imprese Territori. Ci sono stati dei settori che hanno segnato qualche più dopo mesi, se non anni, di segni meno. E allora abbiamo provato a metterli in fila. Trovate l'elenco completo, naturalmente, sulle pagine di Impresa e poi una guida per gli aiuti comunitari, specialmente alle piccole e medie imprese, come prendere o cercare di prendere, insomma, questi aiuti, questi fondi in un momento in cui ce n'è bisogno. Per i più giovani, prestiti d'onore invece per studiare all'università. Posso fare un annuncio radio? Certo, fisco? Come no, assolutamente. Qui Radio Fisco. Perdite su crediti, svalutazioni su crediti. Attenzione, oggi norme e tributi sul Sole 24 Ore, tutti i particolari. Oh, questo sì, è un messaggio, non dobbiamo capire come al solito. È un messaggio che dobbiamo dare, come dire, ai nostri amici professionisti, ma non è necessario che tu e io ne capiamo esattamente il senso. Senti, poi c'è tutta l'agenda per Bruxelles, perché il DEF è solo il primo passo, poi Bruxelles continuerà a guardare con occhio vigile i nostri conti, come ha ricostruito bene Chiara Bussi. Quindi sarà la presentazione del DEF è solo il primo atto, poi saranno vigileranno su quello che facciamo, quello che gli promettiamo e quello che possiamo fare. Intanto sulle raccomandazioni del 2013 siamo andati così e non so se ci danno la sufficienza. Un po' sono andati un po' come te sul condominio, perché più o meno. Beh, ma magari la sufficienza. Vedo che la voce sta meglio, quindi conservala stasera. La voce sta meglio, la conservo per stasera, perché ecco, si esultava, insomma è così. È ripartito il campionato, d'altronde, come tu ben sai. Ma non lo so, vedo che si gioca di sabato, di lunedì, mi sembra un po' strano, sarà un campionato alto. È ripartito con questo vigore, con questo rigore, oserei dire, più che vigore. Noi siamo contrari al rigore, noi siamo per lo sviluppo. No, infatti. Quindi, si sa, l'Inter è contrario al rigore a prescindere. Prima erano gli arbitri contrari, adesso l'Inter è contrario al rigore. Il rigore, il 3% e quant'altro non ci interessa. Va bene. Noi siamo per lo sviluppo, per uno sviluppo e un utilizzo dei finanziamenti. Quindi leggi solo 24 ore, così sai come accedere agli aiuti comunitari. Ottimo. È il mio momento? È il tuo momento. Bene, perché la conversazione si faceva un po' spinosa. Bene, allora traffico. Alessandro Milan, il ciupa ciupa dell'informazione. Eccoli, viva il ciupa ciupa. Allora, Berlusconi, dicevamo minuti fa, Berlusconi, la questione. Intanto lo sfogo con i figli, racconta il Messaggero ieri. Sarà l'ultimo pranzo insieme? Così ha accolto domenica ad Arcore i figli, aspettando la sentenza del 10 aprile. Potremo ancora stare insieme o dovremo chiedere il permesso al giudice per un normale pranzo di festa? E così ha reso cupa l'atmosfera con i figli, che dicono vabbè, ma troveremo un modo tra le telefonate, racconta Mario Aiello in quest'articolo a pagina 5. Ma allo stadio a vedere il Milan la domenica potrò andare o si impedisce al presidente di vedere la propria squadra, come si vorrebbe impedire al capo dell'opposizione di fare politica? E poi Silvio, che riceve la chiamata di Sandro Bondi, che singhiozza: ti hanno tradito in tanti, e Berlusconi che lo rincuora: non essere troppo apocalittico, Sandro mio. Sta di fatto che sono momenti e giorni molto difficili, perché si attende questa decisione il 10 aprile. E a proposito del 10 aprile, sempre il Messaggero, una notizia che viene messa addirittura come notizia di prima pagina, si è vociferato molto di un possibile incontro che Berlusconi vorrebbe da Matteo Renzi, come aveva fatto l'incontro lo scorso 18 gennaio andando alla sede del PD al Nazareno. Vorrebbe un incontro per in qualche modo legittimare: sono io il capo dell'opposizione. Il premier apre al Cavaliere, scrive il Messaggero, incontro prima del verdetto. Non è ufficiale, ma racconta Alberto Gentili a pagina 3 del Messaggero: è dato per certo nell'entourage del presidente del Consiglio l'incontro prima della sentenza tra Berlusconi e Matteo Renzi. Da giorni Berlusconi sollecita questo incontro per avere un riconoscimento, ottenere una legittimazione politica per lui utilissima in un frangente giudiziario tanto pesante. Di questa richiesta si è fatto l'attore Denis Verdini venerdì scorso, quando è andato a trovare Renzi a Palazzo Chigi. Il premier non aveva chiuso la porta, a maggior ragione dopo che anche il capo dello Stato Napolitano ha ricevuto al Quirinale, leader di Forza Italia, ritiene che nessuno potrà gridare allo scandalo quando accoglierà nella sede di Palazzo Chigi il capo del maggior partito d'opposizione. Dunque, sicuramente questo susciterà polemiche. L'incontro Renzi-Berlusconi a Palazzo Chigi, secondo il Messaggero, è dato per certo in settimana prima della sentenza. Per quel che riguarda la politica, dobbiamo andare molto di fretta. Ci sono tanti articoli anche sulla Lega, che ieri si è riunita con questa minaccia per i secessionisti veneti: fuori dal carcere o li liberiamo noi. Questo è il titolo che trovate più diffuso sui giornali. Volevo andare a qualche notizia di cronaca. Beh, intanto c'è questa notizia che coinvolge una notizia molto molto confusa al momento, anche se tutti i giornali dedicano il Corriere due pagine. È stato arrestato l'ambasciatore italiano in Turkmenistan, si chiama Daniele Bosio, ha 46 anni, è stato arrestato nelle Filippine. L'accusa è terribile, perché è stato fermato con tre bambini tra i 6 e gli 11 anni, e dal ministero c'è massima trasparenza, ma anche molta confusione su come sia stato arrestato. Qualcuno dice in un appartamento, altri dicono no, è stato arrestato perché li aveva con sé in un parco giochi. Lui, che viene raggiunto dal Corriere della Sera da Fabrizio Caccia, visto che in questo momento ha gli arresti alle Filippine con l'accusa terribile di pedofilia, ma può parlare via mail, dice: è tutto un terribile equivoco, non sono un pedofilo, quelle accuse contro di me sono infondate, io lavoro, e effettivamente il Corriere dice ha una lunga carriera anche al fianco di ONG impegnate nell'assistenza ai minori, eppure in Italia ha dato una mano spesso e volentieri nella battaglia contro i tumori infantili, ha lavorato con la Caritas di Roma, con l'associazione Peter Pan. Io non ho nemici, non voglio parlare di fango, non conoscevo la severità della legge filippina, ero con tre bambini dai 6 agli 11 anni in un parco giochi, li ho solo portati alle giostre. Diciamo che è una vicenda molto molto brutta, che coinvolge appunto il nostro ambasciatore Daniele Bosio, ambasciatore in Turkmenistan. Non sono un pedofilo, volevo solo farli divertire portandoli alle giostre. Questo è il titolo dell'intervista, pagina 19, ma su tutti i giornali c'è la notizia: ambasciatore italiano arrestato a Manila, era con tre bambini, titolo al giornale. Turismo sessuale arrestato a Manila, diplomatico italiano sul Secolo XIX. Va bene, devo andare solo in fretta al momento conclusivo, all'articolo più inutile scovato sui giornali, al momento della carta costa, con una pagina intera sulla Stampa dedicata da Roselina Salemi ad aprile: i trucchi del dolce dormire. A me già mi fa fare una cosa del genere appena la leggo. Peter Bescapè sulla parola dormire ha spaccato quasi il mixer. Miriam Lucchetti sorride ironica. Io parlo e dico che aprile i trucchi del dolce dormire, perché la primavera concilia il sonno. Sentite il nervosismo che sale, perché concilia il sonno la primavera. Ecco, volete saperlo? Leggetelo sulla Stampa, una pagina. Non volete saperlo perché la carta costa? Non leggetelo. Ma il nervosismo, ci vogliono 6 caffè, grazie, adesso per calmarmi, anzi 7 tisane. Grazie, giornale radio. 24 mattino. Siamo qui alle 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Allora, il governo sta per presentare il DEF, no? Il documento da cui si potrà capire anche dove recuperare le risorse, per esempio per pagare questi 80 euro in busta paga a maggio. Oggi sui giornali è un profluvio di commenti e di idee: tagliate la motorizzazione, tagliare l'ACI, le municipalizzate, questa giungla di società in perdita spesso. e spesso poltronifici per politici trombati. Oppure sentite questa oggi su Repubblica, l'apertura: lo Stato possiede 281 miliardi di valore in immobili eppure ogni anno spende 1 miliardo in affitti, non si capisce come mai, misteri. Sembra al momento un po' scomparsa, o meglio arriva in secondo piano il gran classico, invece, il contrasto all'evasione fiscale. Sono o no pur sempre 90 i miliardi sbandierati dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Befera come potenziali mancati incassi dallo Stato? 90 miliardi, sono tanti, E poi sempre l'Agenzia delle Entrate cosa ha fatto? Attenzione, ha fatto una mappa dell'Italia divisa in zone, in regioni non regioni politiche istituzionali, ma in zone, dividendole in base alla propensione all'evasione fiscale. Secondo questa mappa ci sono 11 milioni di italiani, in gran parte sono in Calabria, in Campania, nella Sicilia meridionale, in Puglia, 11 milioni di italiani che vivono in zone ad alta pericolosità fiscale, cioè ad alto rischio di reato fiscale. Allora, di evasione fiscale partiamo, lo facciamo anche partendo da una polemica che è stata ed è rispuntata, è stata riportata fuori dai giornali per le dichiarazioni dello stesso Befera la scorsa settimana. Con noi ci sono Bruno Tinti, ex magistrato. Buongiorno Bruno Tinti, editorialista del Fatto, eccolo qua. Buongiorno. No, la sento malissimo, dobbiamo ripristinare un attimo il collegamento, forse in viva voce. Voglio salutare anche Oscar Giannino, il nostro Oscar Giannino. Buongiorno Oscar e bentrovato. Ciao Alessandro e ciao a tutti i vostri ascoltatori. Allora, la polemica che è tornata alla ribalta è questa: ricordate i cosiddetti blitz fiscali, no? Di un paio d'anni fa, prima Cortina, poi le località turistiche di Porto Rotondo, Courmayeur. Ebbene, Befera ha detto, da quei blitz fiscali tanto contestati abbiamo recuperato 2 milioni di euro. Qualcuno dice, ma quanti ne abbiamo persi per quello che ha indotto questo modo di fare? Intanto voglio salutare Gerardo Manaigo, che è presidente dell'associazione albergatori di Cortina. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Lei, di fronte a questa 2 milioni di euro di cifra, cosa dice? Dunque, le entrate poi dal 2013-2012 sono diminuite a Cortina, quindi abbiamo versato meno imposte perché c'è stato meno giro d'affari dopo il blitz. Ma questo non è legato, secondo lei, alla crisi generale, è proprio legato al blitz? Ma sicuramente la crisi si è sentita anche a Cortina, però noi abbiamo versato 3 milioni e 7 in meno da un anno all'altro, quindi oltre a questo abbiamo avuto una riduzione della clientela. Non stimiamo di 20 milioni. Il danno che stimate è questo, di 20 milioni. Ma secondo lei perché è in parte anche collegato a questi blitz? Perché ha generato una sorta di terrore da parte dei turisti che hanno preferito a questo punto andare in altre località? Beh, diciamo sì, è stato leso il diritto alla buona vacanza, nel senso che chi veniva controllato, verificato anche in maniera abbastanza, con metodi abbastanza polizieschi, e molte persone hanno deciso di andare fuori confine in Austria, in Svizzera, in Croazia. Quindi dice, se anche Befera dice può sbandierare questi 2 milioni di euro di incassi, però quanti ne abbiamo persi per l'effetto di questa azione? Lei questo sostiene? Sì, esatto. Esatto. E ci può confermare, dice, che nelle località che ha citato, in Austria e Svizzera invece, che sono considerate un po' i concorrenti di Cortina, sono invece aumentati gli affari a fronte di clienti che sono spostati da voi a lì? Sì, soprattutto nella regione confinante con il Veneto e l'Alto Adige, che è appunto lo Stirol, proprio si vedono i dati, aumentato il 5% delle entrate dal turismo. Ecco, questo è diminuito, diminuito lì per andare dall'altra parte. Non so, questo è un primo punto di considerazione sul quale vorrei sentire da Oscar Giannino e Bruno Tinti un parere. Tu, Giannino, ti sei già espresso anche nei giorni scorsi quando Befera ha sbandierato questa cifra criticamente sul Mattino, a dire vabbè, ma intanto non si fanno così i controlli, ci sono tutti i metodi per fare i controlli in maniera diversa. Avete questo modo poliziesco, l'ha definito anche il rappresentante degli albergatori, poi genera invece mancati incassi che lui quantifica, hanno quantificato in 20 milioni, ti sembra plausibile come cifra? Ma io prima di scrivere l'articolo che è evocato l'indomani del Polo di Befera ho sentito un po' il fatto la tara, ma comunque la mia opinione è molto semplice in tre punti. La prima, viva i controlli, resta in Italia un problema serio di emergenza fiscale e di lotta all'evasione. Secondo, il problema per gli effetti contabili, per così dire, della metodologia con cui si fanno i controlli, vanno comprese due colonne, non solo quella dei maggiori incassi da accertamenti, che è quella giustamente vantata da Befera, dice sono 370 accertamenti, solo 32 hanno fatto ricorso, io ho incassato tra imposte dirette e indirette allo Stato 2 milioni in più, ma va affiancata una seconda colonna, quella degli effetti sull'economia reale, perché a seconda del metodo con cui si fa il controllo, se io ottengo questa diminuzione di attività economiche, non solo produco un danno all'economia reale, ma come ovvio sulle attività lecite in meno lo Stato poi incassa meno. Quindi queste due colonne vanno affiancate. Terza cosa, siccome negli anni abbiamo il legislatore ha attribuito alla gestione delle entrate e agli altri apparati tributari dello Stato una crescente, veramente crescente, considerevole e per me anche a volte impressionante mole di strumenti, li abbiamo unificato tutte le banche dati, da quelle automobilistiche a quelle contributive a quelle catastali, patrimoniali di qualunque tipo, gli abbiamo consentito accertamenti immediatamente esecutivi entro tempi che sono incompatibili con quelli più lunghi della giustizia tributaria, gli abbiamo dato tutti i nostri movimenti contabili bancari, oggi è possibile fare, come a metà degli anni 2000 non era possibile, dei controlli dall'incrocio degli elementi delle banche dati e poi verificati ad persona e ad azienda. Questi controlli, che non hanno l'effetto a strascico, concentrano risorse, quelle dell'Agenzia delle Entrate, sui casi su cui è più probabile identificare l'evasione, su quelli in cui è più probabile identificare l'evasione maggiore, perché parliamoci chiaro, se da i controlli per tre giorni a tappeto io porto a casa 2 milioni, non è questa gran cosa, 2 milioni non è una grandissima cifra, però. E terza cosa, mi evita l'effetto a cascata di chi dice vabbè, ma io perché devo andare lì a farmi fermare per strada quando poi lo Stato sa benissimo dalla mia targa senza fermarmi e farmi perdere però tempo? Io mi attacco proprio a questo terzo punto, vorrei sentire Bruno Tinti, che essendo stato un magistrato proprio che si è occupato di tanti anni di questo tema, Bruno Tinti, effettivamente perché la necessità, con tutti gli strumenti che ci sono, di fare anche questi controlli che il rappresentante degli albergatori ha definito polizieschi, cioè proprio per strada, perché è così necessario, Tinti? Dottor Milan, intanto mi faccia salutare il signor Giannino, che sono lieto di risentire dopo tanto tempo, anche perché questa nostra endemica differenza d'opinioni tutto sommato è abbastanza stimolante. Allora, al tempo del Blitz a Cortina il redditometro non c'era, la modifica dell'approvvigionamento dati all'anagrafe tributaria, e cioè la movimentazione bancaria che deve essere obbligatoriamente comunicata dalle banche all'anagrafe tributaria, non c'era. Quindi questi strumenti adesso ci sono, ma allora non c'erano. In secondo luogo, perché non si può fare nella maggioranza dei casi un accertamento tranquillo incrociando i dati, nemmeno oggi? Per un motivo semplicissimo, che l'evasione fiscale italiana tra questo tipo di contribuenti è fondata su una metodologia che non è scopribile, è il famoso nero. C'è poco da incrociare i dati. Nel momento in cui si fa il nero, e il nero non finisce in banca e quindi dalla banca non finisce l'anagrafe tributaria, tutto questo si chiama nero, si chiama nascosto. Ce lo perdiamo in via definitiva, non solo, ma è criminogeno, perché col nero si pagano i costi neri, cioè col nero si consente anche ad altri di evadere. Quindi questa storia di fare controlli tranquilli, tecnici, incrociati, mirati, vale per i grandi contribuenti, vale per le grandi aziende, ma non vale per l'albergatore. Quindi non lei dice, cioè, per, cioè se io pago 300 euro, che ne so, una cena, 300 euro in contanti, senza scontrino, quello è, non è recuperabile se non con un blitz. Da comprare la carne, le patate, il vino, nessuno mai saprà che esistono. Ma poi vorrei aggiungere un'altra cosa, perché mi ha molto impressionato quello che ha detto il presidente degli albergatori. È una mentalità drammatica per il nostro paese. Sarebbe come, e infatti l'hanno detto, quando i Riva dicevano ma noi guardate che se mettiamo a posto Ilva e quindi sosteniamo le spese, poi dobbiamo licenziare gli operai. Cioè la traduzione è: lavorate rischiando la pelle, perché in questo modo se no noi non guadagniamo. Cioè non le piace il discorso, dice, ma così sono andati a Kitzbühele e San Moritz? No, ma certo, cioè qui si giustifica l'illegalità con il profitto. È come quel tizio che diceva che con la mafia bisogna convivere. Ma che discorso è? Perché negli altri paesi invece quando vanno a Kitzbühel, secondo questo signore, gli albergatori non pagano le imposte. Certo che ne pagano, chi ci va se quel 5% di cui lui ha parlato è vero? Ci vanno i nostri clienti italiani che non vogliono pagare le imposte. Sì. Allora noi per tenerceli dobbiamo dire, vabbè, pazienza, non pagate. Qui però credo si possa innestare, caro Oscar Giannino, il discorso che fai spesso tu, dice, va bene il contrasto alla rivolta, all'evasione fiscale, ma forse se lo Stato abbassasse le imposte, se tagliamo la spesa pubblica, che è un tema molto in vigore anche oggi sui giornali, visto quello che domani arriva al DEF, cioè se creiamo un sostrato per cui l'albergatore di Cortina o di qualsiasi paese può sopravvivere in maniera più serena, forse non c'è bisogno di andare a Kitzbühel a fare l'albergatore, dove le tasse effettivamente vanno pagate tutte, però, caro Oscar. Sì, però sono meno, ma sono però meno, questa giusta, certo, premessa è una considerazione di tipo politico, che secondo me è ingiusto fare a Befera e agli uomini dell'Agenzia delle Entrate, perché non sono loro a decidere di non attivare il fondo di restituzione ai contribuenti di almeno una parte. Sono diventati 13 miliardi, giustamente Befera ha detto, ha aumentato ancora nel 2013 gli incassi da evasione, però anche quest'anno, l'anno scorso, i contribuenti che pagano le tasse non hanno visto un euro tornare loro indietro, ma questo però è la politica che non lo decide, quindi tutta la tua osservazione la condivido, ma vale per la politica. Io faccio un altro discorso che riguarda invece l'utilizzo delle risorse dell'Agenzia delle Entrate. Quando parlo di risorse parlo di gente preparata, anche a centinaia, a migliaia. Allora, quello che sappiamo, da quello che ci dice l'Agenzia delle Entrate, per esempio, sulla stima che fa l'Agenzia delle Entrate, è che circa il 40% di ciò che non si incassa, cioè dell'evasione, sul reddito delle persone giuridiche, cioè delle imprese, si concentra in società di capitali grandi, medie e grandi. Allora, lì c'è quello che il dottor Tinti chiama il nero vero, quello spesso, quello pesante. Allora, la mia osservazione è che bisogna concentrare le risorse umane e tecniche dell'Agenzia, come ci dice lei stessa, innanzitutto lì, perché lì si identificano patrimoni e capitali che sono sconosciuti e sono pacchi di centinaia di milioni di miliardi, certo. Mentre invece, quello che dico io, è più facile mandare a tappeto la gente negli alberghi o nelle imprese che mica sono nere e sconosciute allo Stato. Tu entri, conti sul fatto che lì c'è un'elevata liquidità, perché qui stiamo parlando di colpire il lusso, perché Courmayeur, l'intervento in Sardegna e questo a Cortina. Sì, certo, non sono tre località a caso, insomma, non no, sono ma, con ma tutto rispetto a Gatteo Mare. Gli sono in nero. Poi, se c'è nero, ma però tu mandi per tre giorni ad occupare, a farsi vedere, insomma, porta a porta, dopodiché conti sul fatto che ci sia un'elevata contabilità, e come capita a chiunque di noi abbia piccole imprese, quando ti arriva la finanza e la gestione entrata dici, guarda, tu so che ce l'hai, mettiamoci d'accordo, io ho un obiettivo e questo costo che hai messo qui come deducibile non è deducibile, ed ecco come parte l'accertamento. Capisco che in nome dell'incasso e in nome della visibilità della lotta al lusso, però dal punto di vista di quello che lo Stato deve incassare per ottimizzare le sue risorse, si concentrino laddove loro no, ma è chiaro, dicono che c'è, perché qui rischiano solo e questa è l'ipotesi, l'idea di Oscar Giannino, poi ripartiamo da questa pubblicità, si rischia solo di fare comunque una grande operazione di immagine, magari di marketing, ma i risultati poi, cioè, diciamo, sono quisquiglie rispetto a dove si potrebbero raccogliere le vere sacche di evasione, si potrebbero stroncare. Allora ripartiamo tra un attimo dopo la pubblicità con Oscar Giannino, Bruno Tinti, Gerardo Malaigo, tra poco. 24 mattino. Siamo qui, eccoci alle 8:39 minuti. Siamo con Oscar Giannino, Bruno Tinti e Gerardo Mana Igor, rappresentante presidente dell'albergatore di Cortina. Vorrei andare da lui prima di tornare da Tinti. Mana Igor, lei ha sentito quando Tinti dice: ma insomma, come si può legalizzare l'illegalità o far passare il messaggio che, siccome perdiamo i clienti che vanno a Kitzbühel e San Moritz, che dovremmo fare noi, Mana Igor? Chiudere un occhio per mettere del nero? No, assolutamente, questo no. Noi facciamo fra l'altro la nostra parte, perché da sempre qui abbiamo il rispetto delle regole, e il fatto è l'effetto che c'è stato dopo, è questo che voglio evidenziare. Il problema è che chiaramente il turismo è una gestione di sensazioni, di accoglienza. Se chiaramente in un posto un posto ha un bollino rosso, la persona lo evita e va altrove. Vabbè, lei dice, insomma, non è una bella immagine. Non è una bella immagine sapere che se io vado a Cortina rischio di incappare nella polizia, qua, Bruno Tinti, qua, o nella Guardia di Finanza. Questo è, non vuol dire far passare il messaggio di illegalità. Perché sorride, Tinti? Perché, insomma, ha solo ripetuto quello che ha detto prima. Come non vuol dire... Vabbè, però nel turismo effettivamente un albergatore che fa tutto a regola, per esempio, e se si sente dire da un cliente abituale: no, guardi, l'anno prossimo io a Cortina non vengo perché sa com'è, io non è che voglio andare in un ristorante, lei paga tutto, ma io se poi entro in un ristorante e mi arriva la Guardia di Finanza non è che sono molto contento, quindi vado dall'altra parte. Infatti questo è uno dei danni che l'evasione cagiona all'Italia, non c'è dubbio. Tutti quelli che dicono che il nero e l'economia sommersa va contata nel PIL, perché comunque è prodotto nazionale, ricchezza nazionale, e trascurano proprio quello che ha detto lei giustamente: il fatto che l'Italia sia un paese ad alta evasione fiscale, ad alta delinquenza fiscale, quindi porta proprio questi inconvenienti. Io ero andato a guardare, come si dice, i ricchi che mangiano il gelato a Cortina l'anno scorso, ed ero finito sulle vetrine di un grande negozio molto famoso, e lì ho assistito alla lite del commesso con due signore che avevano finito la carta di credito e volevano a tutti i costi pagare una borsa che credo che costasse 10.000 euro, una cosa folle, in contanti, facendosi fare più scontrini perché quello non poteva prendere più di 1.000 euro in contanti, e lui non gliel'ha data. Si rende conto che cosa volevano queste signore? Sì. Volevano semplicemente avvalorare questa prassi del nero, 1.000 euro in contanti. Non si può vivere in un paese così. Volevo aggiungere una cosa però importante a quello che ha detto Giannino, ecco, prima, che parlava dei grandi capitali da aggredire, non tanto. Che Becker l'ha detto questo: noi vogliamo concentrarci sulle grandi imprese e sui grandi capitali. Io su questo ho tutti i miei dubbi. Comincio a dire che le due cose non sono in alternativa, e quindi sono d'accordo con Befera quando dice a Renzi e agli altri: spending review va bene, ma guardate che qui noi fabbrichiamo soldi, quindi lasciateci le nostre risorse. Ma a parte questo, quando noi sappiamo che, l'ho detto 100.000 volte in questa trasmissione, il 90% del gettito fiscale arriva da lavoratori dipendenti e pensionati, è ovvio che il nero arriva da quel 9% scarso che rimane, cioè le partite IVA. Allora questi sono controlli piccoli, però sono quei 9 milioni di partite IVA, sì, fanno un'evasione massiccia, perché i 300 euro di cui lei parlava, no? L'albergatore, sì, il pannello, sì, li moltiplichi per 100 clienti per 300 giorni all'anno, quanti sono? È questo Oscar, c'è sempre questo momento, lo sapevo che doveva arrivare, in cui Bruno Tinti parlava delle partite IVA e Oscar Giannino adesso ribatte come, perché... No, guardi, io non sono più interessato a fare, perché sennò poi diventa una compagnia di giro. No, ma infatti non mi interessa, Tinti ragiona in questo modo, siccome credo abbia un'idea di che cosa vuol dire fare un'indagine fiscale vera sulle società di capitale, cioè significa perdere molto tempo e dover mettere gente che conosce le tecniche societarie di esterovestizione, invece sa anche quindi che è più complicato farlo, ma di lì si ricava di più, mentre invece è più semplice buttare la gente per strada a fare porta a porta con le imprese che sono note allo Stato. Quindi io questa cosa la considero proprio tecnicamente, sono due strade Certo che bisogna farle entrambe, ma la seconda l'abbiamo troppo trascurata, mentre la prima continuiamo a farla. Befera, dopo questi blitz in televisione più volte, una volta anche con me, disse va bene, vedremo, cambieremo la metodologia quando avremo più strumenti. Quindi io per questo mi sono sorpreso che lui abbia ancora difeso i blitz a cascata. Terzo, l'Italia perde da anni le graduatorie internazionali, oltre che per l'evasione, perché lo Stato rapina troppo, e uso apposta questo verbo provocatorio, perché se ancora dobbiamo discutere sul fatto che c'è un eccesso di pressione fiscale a fronte di come lo Stato spende i suoi 800 miliardi, non so di che cosa stiamo parlando. Chiedete a Renzi, non chiedete a me, ecco, voglio dire, siccome questo ce lo dimentichiamo tutti, ma è chiaro a tutto il mondo, per questo siamo diventati solo il quinto paese nel turismo internazionale, per questa ragione qua, perché continuiamo ad aumentare le tasse di soggiorno, qualunque tipo di cosa, in realtà gli altri paesi, con minore pressione fiscale e miglior qualificazione dell'offerta, ci hanno fregato anno dopo anno. Ecco, vogliamo continuare in nome della santa legalità? Stato, no, ma sullo Stato rapina andiamo troppo. Andiamo alla chiusura e saremo tutti felici in nome della legalità. No, questo no. Sullo Stato rapina troppo vorrei sentire, ma dopo il traffico, dopo l'ascoltatore Bruno Tinti, e poi do anche la parola a Manaigo, chiedo di essere sintetici per cortesia. Giuseppe da Roma. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, io sono dell'Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà, mi chiamo Giuseppe Fortuna e saluto sia Tinti che Giannino. Due cose rapidissime. Allora, innanzitutto ci sono tre grandi modalità di evasione e vanno gestite in modo diverso. L'evasione di massa, come quella di cui fa anche parte la questione Cortina, la mancata emissione di scontrini, eccetera. L'evasione fraudolenta, che è tutt'altra cosa e Tinti la conosce bene, c'è l'abuso del diritto, aspetti che riguardano società, eccetera, eccetera. Estrazione, l'Agenzia delle Entrate, andando a Cortina, ha dato due messaggi, secondo me, giusti. Una, al mondo economico e produttivo, siamo in grado di incidere come Agenzia delle Entrate. Non c'era la Guardia di Finanza. Ha mandato un messaggio alla Guardia di Finanza, possiamo fare da soli senza di voi. C'è competizione in questo momento tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Una forte competizione al di là delle parole. Il messaggio, secondo me, Giuseppe, si dà così, cioè andando anche facendo vedere fisicamente l'arrivo. Evolvendosi, però, è un percorso. L'evoluzione finale, bisogna andare verso la prevenzione sul territorio. L'Agenzia delle Entrate ma quello sì, prevenzione e controllo. Attenzione, mappa provinciale dell'evasione da una zona all'altra d'Italia. Ne abbiamo parlato. Nella stessa provincia, tra un comune e l'altro, ci sono realtà diverse. Gli obiettivi devono essere quelli del tax gap, cioè prevenire. La Guardia di Finanza non previene. L'Agenzia delle Entrate guarda soltanto come obiettivi ai soldi contanti del contrasto all'evasione. Bisogna andare sulla prevenzione. Per me, caro Giuseppe, per me, a mio parere, dovrebbero fare un controlli serrati, sicuramente serrati, ma non lo so, questa cosa del blitz mi sembra una roba un po' così poliziesca, no? Da far vedere il volto anche dello Stato. Cioè, non dovrebbe essere uno Stato normale in cui tutto viene controllato da banche dati e poi sanzionato in maniera dura, però Tinti ci dice che quel nero lì invece non si può recuperare se non così. E allora andiamo a sentire il traffico e poi rientriamo. Eccoci qua all'ultima parte di 24 mattino. Allora Manaigo, che voleva replicare a Tinti su quello che ha detto? Sì, io penso che ci sia stato un momento storico, lo stiamo vivendo ancora adesso, lo Stato ha bisogno di far vedere che anche i ricchi piangono, quindi per indorare la pillola a tutti, ha colpito le località del turismo. Il risultato, si è demonizzato questo turismo in maniera assurda, perché siamo una serie di imprese, di piccole imprese, che danno una mano al PIL nazionale. Invece così... Siete stati bollati, no? Guardi, poi Tinti ha capito, non siamo rivolti adesso al mercato, ma Tinti non ci sente, da questo punto di vista. Tinti non ci sente da questo punto di vista, è l'inflessibile rappresentante della legge, dire, con il maglio pesante. Un po' di razionalità su questo, per esempio l'aliquota d'imposta e la pressione fiscale è eccessiva, ma è altissima, su questo non c'è dubbio. Perché è altissima? Perché il professionista che 10 anni fa faceva 100 di reddito, aveva di questi 100 70 provenienti dalla sua attività di lavoro e 30 provenienti dall'evasione fiscale. Oggi perché piange? Perché per via della crisi il reddito si è dimezzato e l'evasione fiscale è più difficile per tutti i motivi di cui stiamo parlando. Sì, però scusi, io volevo fare questa domanda. In Germania, le faccio questa domanda, me lo dico, io non lo so, da ignorante. In Germania vengono fatti questi controlli, cioè così. Sa perché le cito la Germania? No, ha visto il caso di Uli Hoeneß. Certo. Ecco, Uli Hoeneß, ex grande calciatore, poi è diventato presidente del Bayern Monaco, è stato beccato con un'evasione fiscale milionaria. E quello il carcere se ne fa, 3 anni e mezzo, sta entrando in carcere, una cella di 5-8 metri quadrati, quant'è, 2 visite al mese, senza TV, farà il macellaio per lavorare, non avrà sconti, non avrà agevolazioni, si fa 3 anni e mezzo di carcere. Però non lo so, ci sono... Milan, ci mi ha dato una risposta lei. No, capito, ma manca ci sono... solo un pezzettino. Sì, ma è stato beccato con i blitz fiscali o è stato beccato con i controlli? Come fa a essere beccato con i blitz fiscali uno che si è fatto 20 milioni no, di ma per dire che preferisco uno Stato che controlli bene e ma poi quando... anche qui abbiamo beccato Dolce Gabbana, anche qui abbiamo beccato... Ma sono stati assolti poi? No, non sono stati ancora assolti per quanto so io, il sostituto procuratore generale ha fatto una richiesta secondo me non condivisibile poi vedremo. Dal punto di vista di diritto, però poi dobbiamo vedere. Però voglio dire, uno, che le due cose sono d'accordo, non devono essere in alternativa, si deve fare tutte e due, ma la cosa solo che manca a quello che ha detto lei, che è la spiegazione vera del perché lì non c'è l'evasione fiscale, lì se la fai ti stangano, e anche il fatto culturale. Che cosa ha detto questo signore? Non faccio appello, ma vergogno, vado in prigione. Questo è e vero. Qui quando ti beccano vai a ruota, ti danno una pacca sulla spalla e ti dicono poverino, tutta la nostra solidarietà. No, vabbè. Oscar, però non lo so, Oscar, succede. Ma non abbiamo un giudice tributario terzo. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, nel nostro ordinamento il giudice tributario dipende dal stesso ministero a cui fanno capo le agenzie che mi accertano, se vogliamo parlare in punto di diritto, e certo non sono io maestro Tinti, lui a tutti noi. Quindi da questo punto di vista conta, e come dal punto di vista comparato anche nell'evoluzione del costume dell'adesione spontanea alle prescrizioni pubbliche, conta il modo in cui lo Stato si è organizzato e disconosce i diritti, i diritti. Perché nel contenzioso tributario siamo un caso eclatante comparato di violazioni del diritto del contribuente, di inversione dell'onere della prova, del fatto che io per andare di fronte a una commissione provinciale per il solo fatto di pensare di avere qualcosa da dire sulla contestazione tributaria devo automaticamente mettere sul tavolo il 33% dell'accertato che mi è richiesto dallo Stato. Se volete io vado avanti, ma il tempo è finito. Quindi da questo punto di vista lo Stato ha da cambiare molto, perché con queste modalità lui si è messo dalla parte del torto. Lui del questo torto è un grande, perché il contribuente onesto è vessato nel nostro paese. Dai, grande... a parità di nero, che in Germania c'è, inferiore al nostro, ma come ammontare complessivo è maggiore, per l'onesto la differenza è che qui si perde un quarto del tempo in più che in Germania per gli adempimenti, e le norme sono così contraddittorie che un procuratore generale come Santa Maria sul caso Dolce Gabbana può chiedere, a ragione Tinti, non c'è ancora la sentenza, che è un caso eclatante in cui hanno ragione, mentre invece in primo grado la procura ha sostenuto l'esatto contrario. Tanto sono chiare le nostre norme. No, ma questo sì, è il cavallo di battaglia di Oscar Giannino, come sa Tinti. Vogliamo sentire Marcello da Viterbo. Marcello, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io volevo sapere perché non si parla mai del nero cinese, ma il nero cinese, che è una cosa talmente importante, perché si parla di milioni di euro al giorno, penso, che nessuno ne parla mai. Gente che cambiano partita IVA ogni 2 anni, che fanno giri pazzeschi, e quelle 4 fatture che fanno neanche versano l'IVA, ma nessuno mai ne parla. Ma perché? Ma guardi Marcello, ma no, non ne parlo, ci sono anche inchieste, adesso poi non ne farei una questione, come dire, etnica, il nero cinese, cioè il nero c'è dappertutto, e certamente se lei dice, non so, Bruno Tinti, è un vulnus della lotta all'evasione fiscale, quello del nero, del mondo, del mercato cinese. Sì, assolutamente, ma mi pare che Befera ne abbia proprio parlato. Ha ricordato proprio i suoi interventi in materia, adesso l'ho letto 2 o 3 giorni fa. Comunque sono assolutamente d'accordo. Quel tipo di nero vero, e ce ne sono molti altri di questo tipo, è gravissimo. Esattamente come tutte le evasioni fiscali. Però una domanda conclusiva, Tinti, cioè a quell'albergatore di Cortina onesto che si vede la clientela scemare per via di queste cose, che gli dice? Che dice lei? Deve combattere l'evasione. Ho capito, ma lui fa l'albergatore ed è onesto, cosa deve combattere? Lui più che pagare le tasse, che deve fare? Cioè... E che le devo dire io che mi portano via tutto fino all'ultima lira per colpa di quelli che invece fanno il nero e potrei quindi avere delle aliquote d'imposta più basse? Noi scontiamo, le persone oneste scontano di vivere in un paese a cultura illegale, questo, non c'è mica niente da fare. Diciamo questo, no vabbè, diciamo questo all'albergatore onesto. Va bene, io mi devo fermare, ringrazio tutti, Oscar Giannino, Bruno Tinti, Gerardo Manaigo, che voglio ricordare il presidente dell'associazione albergatori di Cortina d'Ampezzo. Oggi alle 16.30 torna Oscar Giannino qui, ovviamente i microfoni di Radio 24. Non perdete l'appuntamento quotidiano con lui e che dire, da Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Alessandro Marco Tulli vi diamo appuntamento, sì, a domani. C'è anche il nostro alpino Peter Pescapè, stai lucidando la penna nera? Che giorno è? Dimmelo, da Pordenone sicuramente 9 maggio, raduno degli alpini, la dunata, ok, solite figure di merda in conclusione. A domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.